fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. È la web radio del Convento di Ronato, sabato 29 settembre del 2018 all'1:09 del mattino, in compagnia di un altro festeggiato, di un altro protagonista di questo sabato sera, che andiamo a conoscere meglio tramite i nostri microfoni, grazie alla nostra radio. Buonasera e benvenuto. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, perdonami se faccio il puntiglioso, o anche buongiorno, buon pomeriggio, perché le repliche possono andare in qualsiasi momento, quindi non vorrei escludere chi si sta svegliando oppure chi sta facendo una corsetta dopo pranzo, anche perché magari con la tua buonanotte può essere che uno alle 2 del pomeriggio torni a letto e lo facciamo licenziare. Quindi no, siamo didascali. No, scherzo, chiaramente. Buon tutto, bravo, mi piace, buon tutto. Benvenuto, come ti chiami? Claudio. Claudio, da dove vieni? Bergamo. Bergamo, e cosa ci fai questa sera qui con noi? Festeggio un addio al celibato. Uno? Quale? L'addio al celibato. L'addio al celibato? L'addio al celibato. Chi è il protagonista? Non lo so, io. Chi è il protagonista? Non lo so, chiedo. Beh, io, dai. Ah, lui, dai, è il suo addio al celibato. Madonna, sono lo sposo e... È criptico, è criptico. Lui. Festeggiamo me, dai. Festeggiamo me. Dai, mi piace questo festeggiamo me, che sì, parla di se stesso in terza persona. Sì. Continuiamo su questa linea. Come descriveresti Claudio, dai? Vedendoti evento, da fuori. Questa serata bellissima. Sì. Sicuramente bellissima. Anzi, ne approfitto per ringraziare i miei amici. Sì. Che... mi hanno organizzato questo addio un po' piccante, lo definirei. Addirittura piccante. Leggermente piccante. Attenzione, mando un messaggio a Monica, un messaggio di amicizia e di pace. Piccante perché chiaramente questo sabato 29 settembre il menù era proprio a tema peperoncino. Per questo, per la cucina, giusto? Assolutamente, sì. Perfetto, sì, abbiamo... No, che non si faccia strane idee, che magari fai cose strane con ragazze strane. Tranquilla Monica. Abbiamo mangiato degli spaghetti. Bravo. Aglio, olio e peperoncino, bravo. La serata è stata leggermente piccante. Piccante, piccante. Il però giusto. Molto bello, sì. Ma sì, spaghetti sì. O vongole? Spaghetti. Alle vongole. Avete trovato la sorpresa? Cozze no, di sicuro. No, niente cozze, non abbiamo cozze. Avete trovato qualche sorpresa all'interno delle vongole? O... Quattro sorprese. Quattro, addirittura. Quattro, sì. Quattro. Molto piacevoli, direi. Quattro sorprese piacevoli. Bene. Sicuramente piacevoli. Un po' piccantine. Anche quelle, tutto. Anche quelle. Però va bene, insomma. Scusa se intervengo. Vai. Mio amico Claudio, veramente quattro sorprese di cui lui spero ne sia rimasto soddisfatto del regalo. Da noi, veri amici, l'abbiamo cercato di accontentare. Perché sapete la sua passione per i gusti piccanti, ah, per la pasta. Soprattutto per le vongole. Per le vongole. Assolutamente. Un appassionato di vongole, di pasta con le vongole, bene, bene, mi fa piacere. Quindi molto bravi. Bene, bene, queste quattro sorprese, mi fa piacere. So che te le porterai nel cuore, immagino. Nel cuore proprio, sì. Forse anche nella memoria e negli occhi. Sicuramente Monica le apprezzerà anche lei. Certo, beh, certo. Le farai. Le vongole direi che sono all'ordine del giorno, insomma, uno che dei vongolata. Piatti. Che vongolata, bravo, bravo, uno dei piatti più prelibati e più gustosi anche del nostro paese. Quindi Monica immagino sia e sarà la futura moglie, tua futura moglie. Esattamente, sì. Bene. Sfortunatamente per lei, sì. Sfortunatamente, come mai? No, beh, scherzo. Sì, sarà. Sarà la mia futura sposa sabato prossimo. Quindi ci siamo. E convoleremo nozze. Ci siamo, manca una settimana, o meglio, già meno di una settimana, perché siamo già entrati nella domenica scavallando la mezzanotte. Allora raccontaci un po' le sensazioni, quello che si vive a meno 7, chiamiamolo meno così. Partiamo da cosa manca. Ormai siamo lì, dai. Tutto definito, non manca nulla. Tutto quasi pronto. Vi siete organizzati per tempo? Sì, dai, tutto fatto, dai. Quello bravi, vi siete... ce la stiamo facendo e c'è un po' di ansia. E beh, com'è giusto che sia. Com'è giusto che sia, però ho voglia, insomma, di... Spero, anche emozione, di però. Di arrivare, assolutamente. Tanta voglia. Tanta voglia di lei. Di chiuderla. Come dicevano i Pooh, tanta voglia di lei. Bravissima. E tanta voglia di vongole, chiaramente. E tanta voglia e di quella rimane sempre. Nicola, dimmi un attimo, tutto. Ma dimmi. Il nostro amico Claudio... Lo spingiamo questo verso questo passo? O... Ma certo, beh, insomma, primo deve essere convinto lui, insomma, noi lo spingiamo se lui è convinto. certo. Beh, dopo queste seratine uno diciamo no, che no, però no, dai no sì sì c'è del dubbio, c'è del dubbio, c'è tutto. Dai, c'è del dubbio, perché mi diceva fuori onda che Monica è una bravissima cuoca ma cucina soprattutto secondi, quindi la pasta con le vongole un po' poco. Non gli viene bene, non gli viene bene, quindi però non picca, non si può applicare. Ci sono degli ottimi ristoranti, bravo, si può applicare, esatto, può applicare. Però giustamente lui diceva, insomma, io non sono abituato a mangiarla, però quando quella volta che la mangi ti ricordi quanto è buona. Esatto, assolutamente, ti ricordi quanto è buona. Quindi anche un messaggio verso Monica per dire: Monica, ricordati, da settimana prossima vongole a gogo per Claudio. Vongole a gogo, mi piace. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Esatto, è giusto. Vongole a gogo. Vongole a gogo, mi piace questo messaggio. E un'altra curiosità: quale sarà il tuo look, se si può svelare, per il matrimonio? Hai qualcosa che hai voluto? Boh, un dettaglio, un colore che avevi? Molto sul classico. Ah, classico, sì, classico. Sul low profile. Ah, low profile. Come dicono quelli giusti. Classiche gialle. Ah, ok. Tanto questa bella capigliatura riccia che invidio per svariati motivi, quella rimarrà, sì. Quella gli abbiamo già dato una potata. Ah, ok, una potata. Che prima era molto più riccio. Esatto. Ah, molto più riccio. Abbiamo proprio già dato una sfoltita. Tanto rimanendo sempre ricci, vongole, insomma, tutto quello. Sì, rimaniamo sempre lì. Sempre in tema marittimo. Sempre in tema marittimo, esatto. Non ci spostiamo. Piatti a base di, insomma, mare. Bene. Da buon siciliano. Da dove? Agrigento. Bene, e beh, direi terra di pesce, terra di pescatori, sì, di mare, di piatti, esatto, buoni. E di buona cucina. E di pesce fresco. E di pesce fresco, certo. Come è giusto che sia. E visto che hai accennato, mi sembrava anche giusto fare menzione dei tuoi amici, di chi ti accompagna. Vuoi presentarceli, vuoi salutarli? Beh, allora, qui abbiamo... Tra l'altro vorrei farvi notare, scusate se interrompo, ci sono altre due vongole che si sono manifestate un attimo qui. Sì, sono manifestate un attimo, sono sparite, ma torneranno presto. Sempre buono questo mare misto, fritto. Sì, è vero, un fritto misto, vero. Variegato, diciamo. Niente, qui alla mia sinistra c'è il vocalist. Lo chiamiamo così per le sue doti. Alex, lui si chiama Alex, quindi attenzione che ti potrebbe rubare il posto. No, beh, ma noi siamo... Sia mai Nicola, tu sei il numero uno. No, figurati, esatto, noi siamo sempre aperti ai professionisti. Ha delle doti non indifferenti. Poi abbiamo l'altissimo Ivan, un grande cestista. Ah, ok, no, pensavo l'altissimo, io già mi immaginavo poteri paranormali, no, che avesse creato il mondo. Solo di statura. Altissimo. Esatto. Poi c'è il mio cuginone. Bello. Grande cuginone Maurizio. Esatto. E poi il mio compagno di avventure universitarie, Marco, che insomma mi ha saputo dare una bella mano anche a scuola, diciamo, a scuola. Così. Anche passavi, passavi, esatto, sotto banco. Passava, faceva copiare. Si passava. Bravo, è giusto. Al di fuori ne abbiamo altri. Sì, no, ricordiamo anche gli amici fuori, ci mancherebbe altro. Insomma, vai. Insomma, tutti i nostri amici, anche il mio cognato Rino, Oscar che starà ballando da qualche parte insieme ad Andrea e insieme a Davide. Insomma, ci sono tanti altri amici anche al di fuori di qui. Nicola, ti do un'altra perla. Prima di raggiungerti, sì, con il nostro amico Claudio siamo andati a fare una gara di kart. Ma qui? Sempre qui a Desenzano? No, a Castrezzato eravamo. Ah, sì, conosco. Ma indovina chi ha vinto? Non lo so, mi metti in difficoltà così, non ho questi poteri. Il nostro sposo Claudio è anche un gran pilota. Primo, incredibile, grande. Ma garantisci da notaio che non ci sono stati aiuti nei suoi confronti perché era la sua festa, no? Assolutamente no. Cioè, agonismo massimo da parte vostra. Massimo. Nessun favore. Abbiamo fatto sportellate finché potevamo. E nonostante questo ha vinto lui. Bello. Fortuna? Caso? E chi o lo bravura? Sa? Magari è il suo giorno e anche il destino ha voluto che... Ma tutto il pacchetto, cioè qualifiche, tutto, e gara? Non c'è stata competizione con lui. Mamma mia, incredibile, veramente complimenti. Secondo bravo. Me gli avversari hanno alzato il piede, però è quello che volevo capire, se c'erano stati dei favoritismi. Me ci sono stati e come. Però sì, sì. Insomma, se lui dice di no, io mi fido, no, mi fido. Mi piace pensare di essere stato più veloce. Dai, va bene, va. Me lo fanno credere e mi piace così. Portati a casa questa soddisfazione, questa vittoria. E vuoi prenderti ancora qualche secondo, dire qualcosa, salutare qualcuno, mandare un messaggio approfittando del microfono? Ecco, appunto, ripeto, grazie per l'addio e... Come grazie per l'addio? Per l'addio a celibato, ovviamente. Ah, ok, no, perché... e addio. Era un brutto messaggio così. E assolutamente un grande ti amo alla mia futura mogliettina. Bravo, bravo, nonostante sia stato suggerito e non so perché. No, perché è tutto spontaneo. Ah, è tutto spontaneo. Fare tutto spontaneo. Ah, ok, no, io sentivo Monica altre voci. È venuto da lui, tranquilla. È il portavoce. Ah, ok, c'è il portavoce, ti giusto. Legge nel cuore, capito? Parla solo se approvato dal portavoce. È giusto? Il libro cuore, Claudio. Bello, è il libro cuore. Bene, bene. Allora, salutiamo Claudio, salutiamo tutti gli amici. Tutti. E salutiamo anche tutti gli appassionati di pesce, che saranno tantissimi all'ascolto ora e nei prossimi giorni. Ragazzi, non mollate mai, il pesce è sempre il meglio. Bravo. Ti ringraziano tutti i carnivori che all'ascolto, che si sono sentiti esclusi, ma insomma capiranno anche loro che mangiare pesce fa bene. Grazie ragazzi, buona serata e buon divertimento. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.